Saperi Pubblici, l'iniziativa che popolerà di tante belle persone Piazza Verdi nelle sere dell'1, questa sera, 1 ottobre dalle 21 alle 23 e 2 ottobre dalle 17 alle 23, è un'iniziativa che costituisce una risposta molto semplice e spontanea a una domanda molto semplice e spontanea. La domanda semplice e spontanea ce l'hanno fatta due studentesse del nostro Ateneo a luglio, chiedendoci in buona sostanza: voi professori, di fronte a un momento politico così preoccupante, così allarmante, caratterizzato da una crescente istigazione al razzismo, da una crescente retorica della patria, da un attacco a diritti civili che pensavamo incontestabili, cosa pensate di fare? Di tacere e di proseguire la vostra serissima ma riparata ricerca o di prendere posizione? Ecco, a queste domande consegnate a due lettere aperte di due studentesse dell'Alma Mater, Margherita Ciancio e Fabiana Maraffa, abbiamo risposto in tanti, in tantissimi, abbiamo avuto centinaia di adesioni da parte dei docenti dell'Alma Mater in pochissimi giorni sul finire di luglio e abbiamo avuto tantissime adesioni da parte di artisti, scrittori, intellettuali, amici del nostro Ateneo. Questa sera avremo un saluto in video di Tony Servillo, l'intervento di Ezio Bosso, una lezione di Ivano Dionigi, una lezione di Nico Staiti che ricorderà insieme le leggi razziali del 38 e l'idea demenziale del censimento dei Rom che abbiamo sentito poco tempo fa. Ci saranno Monio Vadia con il suo gruppo Rom e Gagé, ci sarà Sandro Mezzadra e ci sarà il gruppo teatrale di Cantieri Meticci. Domani il programma è ancora più lungo, partiremo con Stefano Benni, poi avremo fra gli altri Vincenzo Balzani, Ermanno Montanari e Marco Martinelli, Ivano Marescotti, Massimo Cacciari, Anna Rita Angelini, Giorgio Basevi, Nicola Borghesi, Pier Giorgio Ardeni, Alessandro Bergonzoni, Giovanna Cosenza, Mario Perrotta, Elena Bucci e Marco Sgrosso, Enzo Vetrani e Stefano Randisi a partire appunto dalle 17 fino alle 23:30. Ciascuno di costoro si occuperà tramite la sua arte o tramite le sue competenze di ricercatore e di studioso di alcuni temi caldi dell'agenda politica odierna e quindi passeremo appunto dalla questione, dalla macro questione dei migranti, dei confini e dei nazionalismi a questioni di genere, a discutere di carcere e di carcerazione indiscriminata, il tutto sempre in dialogo o comunque con il contributo di studentesse e studenti del nostro Ateneo. In caso di pioggia ci siamo lo stesso, eh? Abbiamo a disposizione già 1000 posti al coperto che vanno dal foyer del comunale fino al 38 di via Zamboni e quindi l'eventuale e ahimè probabile pioggia non fermerà l'iniziativa. Ecco, io volevo chiederle rispetto alla risposta anche che lei aveva dato appunto alle richieste delle due studentesse che poi si concretizzano nelle serate di oggi e di domani, e poi lei nella risposta aveva anche detto che sperava che poi questi eventi o comunque questo attivismo diciamo culturale da parte dell'università potesse diventare una sorta di appuntamento fisso, comunque potesse continuare, quindi ci sono altri eventi in programma? Grazie di questa domanda che viene proprio perfetta. Saperi Pubblici è nato come tentativo di accogliere in maniera originale e coraggiosa le matricole, gli studenti all'inizio dell'anno accademico e di raccogliere qui tutta la cittadinanza, ma è solo un primo appuntamento. Noi stiamo già pensando ad appuntamenti successivi che più approfonditamente tornino sui temi che in questi due giorni o due sere, se preferite, saranno solo accennati, solo sfiorati. Dopodiché noi torneremo su quei temi con una semplicissima filosofia, cioè i saperi che stanno dentro un Ateneo devono mettersi il più possibile al servizio e della critica e del contributo positivo a questioni gigantesche che segnano il nostro tempo e fa parte del nostro lavoro. Non è una cosa che dovrebbe suonare strana o inconsueta, dovrebbe essere del tutto normale che la ricerca, la riflessione che si compie dentro un Ateneo abbia una sua capacità di prendere la parola in pubblico e di prendere posizione in pubblico. Viviamo in tempi di disprezzo quasi esibito delle competenze, della scienza è tempo di reagire prendendo la parola. Un'ultima domanda un po' più organizzativa: sono stati coinvolti anche collettivi di studenti o comunque organizzazioni studentesche o solo gli studenti come singoli? Sono coinvolte le associazioni studentesche, quasi tutte le associazioni studentesche dell'Ateneo, e proprio mentre si tiene questa intervista, poche stanze accanto alla mia, siamo con 60 studenti a mettere a punto l'organizzazione complessiva di questa prima serata. Sì, le associazioni studentesche sono state coinvolte fin dal primo momento.